Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. E allora oggi niente Simone Spezia, ma c'è Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Una buona giornata da Anna Migliorati. Il punto della giornata alle 13 su Radio 24. Cominciamo dai titoli. Le notizie principali di oggi: il gasdotto TAP e il TAR che ferma il cantiere. Esultano i manifestanti, di nuovo interrotti i lavori in Puglia, ma è stop solo fino al 19 di aprile. 817 miliardi di debiti per gli italiani con le tasse, 21 milioni quelli che non pagano e molti resteranno insoluti. Crisi PD, maggioranza nel caos dopo lo sgambetto al Senato, Alfano ora chiede chiarimenti. San Pietroburgo, kamikaze contro la sua volontà, forse l'attentatore della metro, nelle indagini spunta una nuova ipotesi. 8 anni fa il terremoto all'Aquila, bene la ricostruzione privata, ancora incompiuta quella pubblica, la fiaccolata nella notte in ricordo delle vittime, anche i terremotati di Arquata e D'Amatrice che ora attendono anche loro i fondi per ripartire. Pasqua di shopping, l'apertura di Serravalle diventa un caso e questa mattina c'è stato anche un vertice in prefettura, ne parleremo. E allora cominciamo questo il punto della giornata, ma cominciamo a entrare anche un po' più nei dettagli. Se ne riparla, dicevamo, dopo Pasqua, perché è nuovamente fermo il cantiere in Puglia per la ricostruzione del gasdotto con il contestato espianto degli ulivi nell'area del cantiere di Melendugno. Questa volta però non sono stati i manifestanti a bloccarlo, ma è un nuovo capitolo giudiziario, una vicenda che è sempre più ricca di tensioni. Torniamo in Puglia, torniamo a fare il punto con Domenico Palmiotti, benvenuto. Buongiorno Anna, sì, l'hanno chiamata la battaglia degli ulivi, ma probabilmente sarebbe più opportuno chiamarla la battaglia legale delle carte bollate, perché come dicevi tu, oggi c'è stato un altro colpo di scena. Il TAR del Lazio ha sospeso l'espianto degli ulivi ed ha accolto un ricorso della Regione Puglia. L'espianto degli ulivi è sospeso sino al 19 aprile, quando il TAR terrà l'udienza di merito della Camera di Consiglio e quindi emetterà il suo verdetto. Che cosa ha accolto il TAR del Lazio? Ha accolto il ricorso della Regione, che ha impugnato una recentissima nota del Ministero dell'Ambiente che, a fronte appunto delle richieste della Regione, diceva che TAP aveva adempiuto a tutte le prescrizioni della cosiddetta fase zero, quella dell'espianto degli ulivi, e che quindi la società del gasdotto era in regola, era autorizzata e che poteva espiantare gli ulivi. La Regione invece esprimeva parere contrario su questo e quindi ha impugnato i provvedimenti del Ministero dell'Ambiente, provvedimenti che il Ministero dell'Ambiente ha anche successivamente ribaditi, e quindi una vicenda piena di colpi di scena. Sempre più, come dicevi tu, di carte bollate. Domenico, giusto per chiarire anche la questione, nel frattempo tra stop and go degli ulivi che andavano espiantati, quanti ne rimangono ancora? Gli ulivi sono stati quasi tutti espiantati, ne rimangono poco più di una ventina. 180 ulivi sono stati espiantati provvisoriamente e rimessi a dimora in un nuovo sito. Torneranno nell'area del gasdotto dove erano quando i lavori saranno finiti. Quindi il TAR è entrato, dicevamo, oggi ha fermato i lavori, nel merito entrerà il 19, nel frattempo però restano solo una ventina di ulivi. Certo, certo, sì. Rimangono soltanto una ventina di ulivi da portare via per consentire poi che i lavori del microtunnel possano cominciare. Grazie allora Domenico Palmiotti, una vicenda che non ha fine a quanto pare, torneremo sicuramente a risentirci. E nel frattempo è sempre la magistratura che riapre anche però un altro caso, questa notizia di poco fa, perché la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva, ricorderete, per la strage di Erba del dicembre 2006. Il legale dei coniugi aveva chiesto però, con la formula dell'incidente probatorio, nuovi accertamenti scientifici mai effettuati prima sui reperti relativi alla strage. La sua richiesta era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Brescia, presentato ricorso in Cassazione. Ebbene, la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di inammissibilità. Quindi, di fatto, la Corte d'Appello di Brescia dovrà riesaminare ancora la questione. Le motivazioni saranno note entro un mese, ma potrebbe riaprirsi la vicenda della strage di Erba. Naturalmente, vedremo di capirne di più. Ad oggi ci sono circa 21 milioni di italiani che risultano avere debiti con gli oltre 8.000 enti creditori per cui esercita la riscossione Equitalia, vale a dire sostanzialmente enti pubblici. In qualche modo sono debiti con lo Stato, cosa succede, gli italiani li salderanno, insomma, cerchiamo di capirne di più anche su questo. Teresa Trillò. Sì, buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Come dicevi tu, sono 21 milioni i contribuenti italiani che hanno debiti con il fisco e fra di essi il 53% ha pendenze che non superano però i 1000 euro. E lo dice l'amministratore delegato di Equitalia, cioè la società di riscossione di tasse e imposte, Ernesto Maria Ruffini. E il magazzino, ossia i carichi residui dei debiti fiscali da riscuotere affidati a Equitalia dal 2000 al 2016, ammontano a 817 miliardi di euro, ha spiegato Ruffini, ma si potranno ragionevolmente riscuotere solo 51,9 miliardi, perché oltre il 43% è difficilmente recuperabile. Ci sono infatti 147,4 miliardi dovuti da soggetti falliti, 85 miliardi da persone decedute e imprese cessate e 95 miliardi da nullatenenti. Nell'ultimo biennio però Equitalia ha migliorato l'attività di riscossione. Sentiamo Ruffini e poi la linea torna allo studio. A riguardo, il risultato complessivo di riscossione nel biennio 2015-2016 si è attestato quindi in quasi 17 miliardi di euro rispetto al risultato consuntivo del biennio precedente 2013-14 di circa 14,5 miliardi, con una differenza positiva di 2 miliardi e mezzo e un incremento del 16,85%. Allora, grazie anche a Teresa Trillò. Restando ai temi economici, le altre notizie per fare il punto di questa mattinata: il PIL reale dell'Italia è calato dello 0,2% nel quarto trimestre 2016 contro lo 0,3% del trimestre precedente, così emerge dalle stime provvisorie dell'OCSE diffuse appunto questa mattina. Il leggero calo, dice l'OCSE, è dovuto al rallentamento dei consumi privati, mentre i consumi delle amministrazioni pubbliche e la bilancia commerciale hanno contribuito positivamente. Ed è braccio di ferro intanto che continua con la BCE sul fronte economico. Non abbiamo ancora prove sufficienti per alterare la nostra valutazione sulle prospettive di inflazione, dunque non vedo motivo per deviare dalle indicazioni che abbiamo già dato sui tassi di interesse, sugli acquisti di titoli di Stato. A parlare nuovamente questa mattina è stato Mario Draghi, presidente della BCE, una risposta alla sua alle pressioni affinché la BCE cominci a segnare una stretta monetaria. Ma siamo anche alla politica. PD battuto al Senato, tra meno di due ore un vertice nel PD per già quella che si preannuncia una prima almeno resa dei conti, però ora c'è anche Alfano che interviene. Allora andiamo anche a Montecitorio, dove c'è invece Elisabetta Fiorito. Sì Anna, allora Angelina Alfano interviene sul pasticcio della Commissione Affari Costituzionali al Senato. Il leader di Alternativa Popolare ha chiesto le dimissioni del presidente Salvatore Torrisi, eletto con i voti dell'opposizione ieri. Mi ha chiesto 24 ore per riflettere, dice Alfano. Visto che si tratta di una questione di principio, è chiaro che la sua permanenza alla presidenza è incompatibile con Area Popolare, ma Alfano respinge anche al mittente le accuse di boicottaggio arrivate dal PD. Da Orfini ho sentito parole surreali: se qualcuno cerca pretesti per far cadere il governo e andare al voto anticipato, lo dica chiaro. Intanto, come ha annunciato te, l'ex premier Matteo Renzi convoca per oggi pomeriggio alle 15 una riunione con i suoi parlamentari per chiarire la situazione, mentre Pierluigi Bersani di MDP annuncia che non andrà ad incontrare il premier Paolo Gentiloni. Ieri i fuoriusciti del PD che sono in maggioranza hanno votato con l'opposizione. Non si cerchino capri espiatori su ieri, dice Bersani, valgono i numeri. Perché però la Commissione Affari Costituzionali è importante? Perché quella preposta a preparare la legge elettorale e quella del Senato è essenziale, perché i numeri sono più esigui rispetto alla Camera. A te Anna. Grazie, allora abbiamo capito perché tutto questo potrebbe creare caos anche nelle prossime ore, quindi naturalmente continueremo a seguirlo. All'estero invece la notizia di pochi minuti fa arriva dalla Russia, perché potrebbe essere un altro lo scenario dell'attentato alla meteo di San Pietroburgo. Le ultime notizie delle indagini non escludono una nuova pista. Quale, Laura Bettini? Buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Sì, gli investigatori non escludono l'ipotesi l'ipotesi che Akbarjon Jalilov, il presunto autore dell'attentato alla metro di San Pietroburgo, non intendesse farsi esplodere, ma al contrario che sia stato ridotto a bomba, diciamo così, dai suoi complici, quindi un kamikaze a sua insaputa. Questa è la versione che riporta l'Interfax, citando una fonte vicino alle indagini. Molti indizi, dice, indicano che avrebbe dovuto solo piazzare gli ordigni e che pensasse che questi ordigni sarebbero stati innescati più tardi con una telefonata. Non sembra infatti che questa persona avesse la preparazione, la motivazione necessaria a immolarsi nella metropolitana. Intanto ci sono stati altri 3 fermi a San Pietroburgo in relazione a questo attentato, persone che sarebbero state coinvolte nella sua preparazione. In generale si pensa che a preparare l'attacco siano stati degli uzbeki, ex combattenti in Siria con l'ISIS. A San Pietroburgo oggi è stato disinnescato tra l'altro un altro ordigno in un condominio, e a Rostov sul Don è esplosa una bomba per strada, c'è stato un ferito. Attorno alle 6:30 del mattino, ma qui ancora non si hanno informazioni su cosa sia successo, se ci siano state rivendicazioni e su che tipo di ordigno sia effettivamente esploso. Anna. Grazie, allora anche qui ci sono ancora punti da chiarire, come punti da chiarire ci sono in Siria, dove secondo Ankara le autopsie confermerebbero l'uso di armi chimiche. Ma la vicenda non è solo sul campo, è anche diplomatica all'ONU, allora anche su questo gli ultimi aggiornamenti. Uccisi da armi chimiche, a confermarlo è l'autopsia fatta sui corpi di 3 persone morte dopo l'arrivo in Turchia, vittime dell'attacco avvenuto martedì a Khan Shaykhun, nella provincia di Idlib in Siria, nel quale si contano più di 80 morti, tra loro 30 bambini. Una storia orrenda, come ha detto il presidente americano Trump, che ha già messo in chiaro che in caso non si muovesse la diplomazia internazionale, gli Stati Uniti agiranno da soli contro Assad, ritenuto colpevole. Accuse rivolte in questi giorni da diverse organizzazioni internazionali e singoli governi, tra cui l'Unione Europea. In campo a fare chiarezza anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che però è mobilizzato dal veto della Russia alleata di Assad. L'area colpita è l'ultima provincia della Siria, ancora sotto completo controllo dei ribelli che si oppongono al regime. La compagine dei ribelli però è molto confusa. Ci sono moderati che combattono il regime di Assad, ma anche diversi gruppi di jihadisti. In mezzo ci sono i civili, centinaia di migliaia di persone. Una storia su cui si fa luce ora per ora. Abbiamo investigatori a Amman, a Beirut, in Turchia, al confine con la Siria, spiega su Repubblica Carla Del Ponte, procuratrice e membro della commissione ONU che indaga sui crimini contro l'umanità in Siria. Il bombardamento è stato fatto con aerei, continua la Del Ponte citando testimoni, e a breve si saprà anche il tipo di gas utilizzato. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto oggi già anticipiamo, ci sarà però un altro atteso confronto, questo davvero tutto diplomatico. Il presidente americano Trump incontrerà infatti in Florida il presidente cinese Xi. Il dossier caldo su questo fronte è quello della Corea del Nord. Difenderemo gli alleati dalle minacce di Pyongyang, assicura Trump al premier giapponese Abe, che è sicuramente quello che attende maggiormente l'incontro americano. Ne parleremo naturalmente. In Europa ancora le tensioni sono con l'Austria per i confini, un altro lato della medaglia nella gestione dei migranti. Controlli di frontiera in Europa sono necessari per colpa della mancata messa in sicurezza del confine esterno dell'Europa, ha detto il ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz, che non ha escluso, in caso di bisogno, l'attivazione anche della barriera al Brennero. Se un paese dovesse ricorrere a controlli di confine, va rispettato, dice l'Austria all'Europa. Ma proprio domani, tra l'altro, domani è il 7 di aprile, entreranno in vigore le norme appena approvate. Solo 3 settimane fa hanno avuto il via libera definitivo per il controllo delle frontiere esterne, o perlomeno delle frontiere extra Schengen. Controlli che in qualche modo riguardano anche noi, allora cerchiamo di capire da domani cosa succede. Fatto il regolamento, fatta anche l'eccezione. Domani entrano in vigore le nuove regole messe a punto da Parlamento europeo e Consiglio che riguardano il rafforzamento delle frontiere esterne, il che tradotto vuol dire più controlli. Si legge che all'ingresso e all'uscita dall'area Schengen i beneficiari del diritto alla libera circolazione sono sottoposti all'accertamento dell'identità e cittadinanza, nonché la validità del documento di viaggio, anche tramite la consultazione di banche dati, che nello specifico sono 3. Il sistema informativo Schengen, la banca dati dell'Interpol, le banche dati nazionali. Anche la Croazia, che fa parte dell'Unione Europea ma non della zona Schengen, dovrà adottare le nuove regole e, in previsione delle vacanze, al confine con la Slovenia, il tutto potrebbe risolversi in code imponenti. Fino a questo momento la polizia di confine poteva sottoporre i cittadini dei paesi europei ad un controllo dettagliato a propria discrezione, procedura applicata raramente. Da questo momento il controllo dovrebbe essere la regola, anche se lo stesso nuovo regolamento prevede la possibilità di ridurre le verifiche laddove le stesse abbiano un impatto sproporzionato sul traffico. Certo è che queste riduzioni devono essere limitate nel tempo, ma forse la stagione estiva ci sta. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Marchionne lascerà Fiat Chrysler nel 2019, già sentore c'era, ora lo ha confermato questa mattina a Torino John Elkann, nessun timore per la successione però ha tagliato corto, abbiamo tantissime persone brave che potranno succedergli, queste sono state le parole di Elkann. Fiat Chrysler va avanti sotto la guida di Marchionne, con lui lavora una squadra di persone bravissime, Marchionne però ha aggiunto continuerà a lavorare con noi, si occupa di Ferrari in modo straordinario e continuerà a farlo finché vuole, insomma. Ma potrebbe essere in realtà quello del 2019, un addio a metà. Notizie di cronaca di questi minuti, maxi operazione della Guardia di Finanza, sono in corso perquisizioni, sentiamo. Sono una settantina le perquisizioni eseguite stamattina in tutta Italia dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza su ordine della Procura di Roma. L'inchiesta riguarda un caso di presunta corruzione, ma anche alcuni episodi di evasione fiscale che coinvolgono studi professionali in varie città. Al centro ci sarebbe sempre una ditta attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, tra i perquisiti c'è anche Maurizio Venafro, l'ex capo di gabinetto del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. In passato Venafro era stato già processato e assolto in primo grado per una vicenda che riguardava una serie di appalti gestiti con alcuni politici e imprenditori coinvolti nell'inchiesta su Mafia Capitale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quest'anno basta, non ne possiamo più, sfida infinita quella tra Juventus e Napoli. Sei così cattiva, come non ne possiamo più? Perché così, perché così. Dai, so che parti con sprint e tra pochissimo ci racconti tutto, no? Ma no, vi racconto tutto, ma io ne vedrei altre 10, 12 di partite come quella di ieri sera, è stata bellissima, 3-2 per il Napoli, non basta per ribaltare il 3-1 di Torino all'andata, Juventus che passa subito in vantaggio con, indovinate chi, Gonzalo Higuaín, che nel complesso in questa stagione che tu dici non ne possiamo più, ne ha segnati 4 di gol al Napoli. 4 giorni, ben due volte, hanno dato il meglio. Dai. Sì, vabbè, adesso per il momento basta, se ne riparla l'anno prossimo, ma è stata comunque una partita meravigliosa. Napoli esce a testa altissima da questa gara, la Juventus conferma che con una formula più offensiva è anche più bella e più divertente. Ovviamente la partita è stata condizionata dal risultato dell'andata, cioè da quel 3-1 e dal gol iniziale di Higuain, ma c'è stata una grande reazione del Napoli con cinema finale, con Higuain che segna, poi indica la tribuna dove sta De Laurentiis, come dire va bene, voi mi fischiate tifosi del San Paolo, mi date del Giuda, del traditore, ma la colpa è di quel signore con la barba seduto in tribuna. E tra l'altro c'è anche una, vorrebbe anche qualche soldino di diritti d'immagine, c'è anche questa storia a latere che a suo dire, a dire dei legali di Higuain, non sono stati versati da De Laurentiis. Insomma, e naturalmente alle 14 ci raccontate la storia tutto. Infinita, cara Anna Migliorata. E vedi che allora ti avevo pungolato giusto lì. Dalle 14 naturalmente ci raccontate tutto, tutti convocati, grazie a Carlo Genta. Grazie a voi. Il traffico, vediamo come va. Noi ripartiamo da tutt'altro tema, sono 8 anni dal terremoto dell'Aquila. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Il punto sulle notizie a metà giornata di Radio 24. Il gasdotto TAP e il TARM, questa volta a fermare il cantiere, esultano già i manifestanti, di nuovo interrotti i lavori in Puglia, stop fino al 19 di aprile. La strage di Erba, la Cassazione riapre il caso, accolto il ricorso di Olindo e Rosa, ci sono prove che andranno rivalutate. 817 miliardi di debiti per gli italiani con le tasse, 21 milioni quelli che non pagano. Crisi PD, maggioranza nel caos dopo lo sgambetto al Senato, ora anche Alfano chiede chiarimenti. 8 anni fa il terremoto all'Aquila, bene la ricostruzione privata, ancora incompiuta invece quella pubblica. La fiaccolata nella notte in ricordo delle vittime e anche i terremotati di Arquata ed Amatrice che ora attendono anche loro i fondi per ripartire. Antonacci Giuseppa, De Felice Fabio, Antonini Jenny, Antonini Giusi, Antonini Maurizio, Antonini Stefano, Tamburro Giuliana, Tamburro Marino, Antonucci Maria Assunta Madre Gemma, Ascaride Paolo. Ed eccoli, 309 rintocchi, 309 vittime, rintocchi della campana della Chiesa delle Anime Sante che tra l'altro è tornata a suonare da pochi mesi nell'ambito dei lavori di ricostruzione. 8 anni dal terremoto dell'Aquila. Questa notte c'erano anche i terremotati di Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, gli sfollati di Campotosto che tra l'altro sono ospitati all'Aquila. Insomma, è stata una cerimonia che ha intrecciato il passato e il presente. Torniamo a parlarne quindi oggi e io saluto innanzitutto, mi ha raggiunto la collega Raffaella Calandra, benvenuta. Ciao Anna, ciao al nostro che tra l'altro entrambi i luoghi ha visto, e l'assessore alla ricostruzione del comune dell'Aquila Pietro Di Stefano, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti. Ma con noi c'è anche il vice sindaco invece di Arquata del Tronto, Michele Franchi, benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, come sempre in effetto giorno cerchiamo di fare il punto su una questione per volta, ma è impossibile in queste ore non intrecciare, come dicevamo, passato e presente. Cominciamo dall'Aquila. Abbiamo detto la ricostruzione privata, cioè quella degli appalti affidati direttamente ai cittadini, tutto sommato è a buon punto, è quella pubblica invece che ancora non va. 8 anni dopo c'è in qualche modo anche un simbolo che è Palazzo Margherita, sede del comune dell'Aquila. Di Stefano, perché? Cosa non funziona nella ricostruzione pubblica? In quei centri storici l'anima che deve ripartire? Il terremoto che ha colpito l'Abruzzo, che ha colpito la città dell'Aquila, diciamo che ha aperto uno scenario di riflessione forse che chi fa le leggi non aveva ben capito prima. Quando colpisce una città, che ci sia un enorme patrimonio pubblico dentro quella città è cosa nota, perché sono patrimonio pubblico le chiese che sono adesso assoggettate, è patrimonio pubblico tutte le proprietà della regione, del comune, della provincia, delle varie aziende che in qualche modo sono pubbliche, e tutto questo è assoggettato alle procedure del codice, il codice degli appalti. Ora, quel codice va bene per la ricostruzione, per gli interventi nella ordinarietà, va invece malissimo in situazioni come quelle del terremoto. Parliamo di ricostruzione, diciamo, prevista entro il 2020 per voi, ma per tutti i 56 comuni del cratere parliamo del 2025, è lo step che ad ora ci siamo dati? No, lo step ci siamo dati noi, l'Aquila, è per le frazioni prioritarie, il centro storico, 2020. Sì. D'altronde eravamo al 2019. Abbiamo detto 2020, esatto. E siamo andati al 2020. Perché... Poi 2025 e tutti gli altri comuni che ovviamente non vi riguardano. 2022 e tutte le frazioni del cuore dell'Aquila. Il 2025 saranno gli altri comuni del cratere, che però hanno un'altra procedura, hanno l'ufficio speciale proprio e quindi hanno un altro modo di andare avanti. Noi crediamo di stare molto più avanti perché siamo partiti prima, abbiamo incastrato prima le procedure e quindi questo ce lo ritroviamo, anche se poi gli uffici speciali bisogna dire che sono partiti nel 2013, non nel 2009. Michele Franchi, vice sindaco di Arquata del Tronto, ovviamente voi siete in tutt'altra fase, che effetto le fanno queste parole? Un strano effetto, nel senso... Noi abbiamo una situazione particolare anche qui al centro storico di Arquata del Tronto che non è raggiungibile, non c'è una strada che che può portare anche a rimuovere le solo le macerie. Quindi sentire queste date ci preoccupa. Però adesso noi la nostra priorità è la fase emergenziale che sta per terminare, speriamo, le casette, perché all'Aquila le casette le hanno avute subito, qui ad Arquata del Tronto ci sono dei ritardi un pochino grandi, grandi ritardi. I suoi concittadini erano sabato a bloccare strade e davanti a Montecitorio a protestare: blocchiamo l'Italia se non ci aiutate. Il decreto approvato ieri sera li ha un po' tranquillizzati? Sì, ci ha un po' tranquillizzati, loro fanno bene a protestare, ma io non voglio accentuare la protesta. Io dico che qui sono stati 4 eventi sismici, uno più grande dell'altro, dal 24 agosto 51 morti, il trend è stato ancora più forte, un 6.5 è il terremoto più forte degli ultimi anni in Italia, e poi un altro evento sismico il 26 di ottobre c'era stato, il 18 qui a Montereale, qui vicino, noi siamo sempre vicino anche all'Aquila, non siamo distanti in linea chilometrica, 10 chilometri da Campotosto, c'è una diga che vi separa. Io dico che bisogna solo fare in fretta. All'Aquila si è fatto in fretta, forse c'è stato un eccesso di velocizzazione delle pariche burocratiche. Qui troppo poco. C'è un eccesso di prudenza. Vabbè, Di Stefano, secondo lei la vostra esperienza e anche gli errori fatti potranno aiutare chi non sta così lontano da voi? La nostra esperienza deve aiutare, e deve aiutare innanzitutto il Parlamento a scrivere una legge che riguardi un po' tutte le situazioni come il terremoto, le alluvioni, situazioni che presentano caratteristiche dell'emergenza e dell'eccezionalità, di come si deve proseguire. Però vedo anche che ogni volta che c'è una crisi sismica si tende a ripartire sempre da capo. Ora, nel terremoto del centro Italia, Amatrice, Norcia, cioè non si fa esperienza degli errori fatti, dice lei. Lì si è fatto parzialmente esperienza degli errori fatti, però si è fatto esperienza perché erano ravvicinati. Però quello che è più importante è che sia il Parlamento a darsi una legge. Perché serve una legge, dice lei. Allora, ma grazie. Serve una legge, sì, perché altrimenti dopo arrivano le procure e la cosa diventa veramente un dramma. Sì. Pietro, ecco. Di Stefano, assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, grazie anche Michele Franchi, vice sindaco di Arquata del Tronto. Grazie mille. Arrivano le procure e allora, tra un terremoto e l'altro, Raffaella Calandra. Anna, cominciamo da quelli, diciamo, dalle procure che sono ancora al lavoro sui terremoti nel centro Italia, perché a breve stanno per essere chiuse le prime inchieste. 8 mesi dopo il primo forte terremoto, quello di Amatrice del 24 agosto, la procura di Rieti sta per mettere un primo punto fermo sui crolli di case, alberghi e campanili causa della morte di centinaia di persone. Ancora una volta la tesi di fondo sarebbe una: con lavori di ristrutturazione nel rispetto delle norme sismiche la strage non sarebbe stata di questa entità, ma perché non erano stati fatti e in alcuni casi quei fondi già stanziati in che modo sono stati usati? Questi quesiti che dovrebbero portare, secondo indiscrezioni, all'iscrizione a breve di una 15 di persone tra dirigenti comunali, direttori di lavori e tecnici. Sarebbe ormai questione di giorni per conoscere i nomi degli indagati, stando ai tempi indicati dal procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva, secondo cui il fascicolo più avanti è quello sul crollo del campanile della chiesa di San Francesco ad Accumoli. Il quadro sarà più chiaro però una volta ricevute le varie perizie affidate ai propri periti anche su altri edifici chiave, come l'hotel Roma di Amatrice, dove morirono molte persone, o le case popolari di Largo Sagnotti, in cui persero la vita in 22, o ancora sulla scuola di Romolo Caprarica. Alla fine una curiosità, che non è neanche una curiosità, ma che lega in qualche modo le esperienze dei terremoti di cui purtroppo l'Italia è vittima, perché ad occuparsi di queste perizie per la procura di Rieti è lo stesso tecnico che aveva già fatto luce sui crolli dell'Aquila, ossia Antonello Salvatore. E grazie a Raffaella Calandra. Come abbiamo visto, sempre più due storie che si intrecciano, e noi a Radio 24 continueremo a tenere i riflettori più che mai accesi. Le 13:30 minuti, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Effetto giorno. Il punto di Radio 24 a metà giornata, le notizie di oggi: il gasdotto TAR a fermare il cantiere, di nuovo interrotti i lavori, stop fino al 19 di aprile, e ora esultano i manifestanti. Crisi nel PD, ora la maggioranza è nel caos. Dopo lo sgambetto al Senato, Alfano chiede chiarimenti. Strage di Erba, la Cassazione riapre il caso. Accolto il ricorso di Olindo e Rosa, ci sono prove della strage di Erba che vanno riverificate. 817 miliardi di debiti per gli italiani con le tasse, 21 milioni quelli che non pagano e molti resteranno insoluti. Ma è il momento della borsa, con noi Eleonora Micheli. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Effetto Giorno. Che si fa a Pasqua? Potrebbe entrare lo shopping nelle nuove tradizioni, e non è ovviamente una battuta, perché il dibattito è più che mai aperto. Per la verità non è neanche nuovo, perché scoppiarono polemiche anni fa quando si parlava di negozi aperti la domenica. Ora si parla di negozi aperti a Pasqua, e nel caso specifico la vicenda è quella dell'outlet di Serravalle, che è il primo e il più grande d'Italia. Ne sta venendo fuori una bufera, e allora siamo andati a vedere che succede. È andato il nostro Andrea Ferro, eccoti. Buongiorno Anna, buongiorno da Serravalle, la cittadella dello shopping, come dicevi, più grande d'Italia ed Europa, 50.000 metri quadrati di superficie, 250 negozi, 2.000 dipendenti diretti, almeno 200 quelli dell'indotto. La polemica, come accennavi, è ormai nota. La decisione di tenere aperto a Pasqua ha scatenato le reazioni di una parte dei lavoratori. I sindacati hanno proclamato lo sciopero la vigilia e il giorno di Pasqua. La notizia degli ultimi istanti è che il giorno della vigilia, quindi sabato prossimo, qui di fronte all'accesso principale dell'outlet, si terrà una manifestazione, e oggi ad Alessandria il prefetto Romilda Tafuri ha avviato gli incontri con le varie parti in causa. A breve riceverà una delegazione dei sindacati. Riassumo le due posizioni: da parte dei gestori dei negozi e della cittadella, tenere aperto a Pasqua significa intercettare un flusso turistico consistente, ormai questa è una meta turistica vera e propria. Pensate, il 51% dei clienti è straniero, in ballo c'è qui quindi la valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità. Questa è una parte. Dal fronte opposto si sostiene invece che l'apertura a Pasqua offende i diritti dei lavoratori, la loro dignità. I sindacati denunciano condizioni difficili anche in rapporto alle condizioni contrattuali stesse, tra precarietà e retribuzioni non adeguate. Qui nei giorni scorsi è stata la segretaria della CGIL Susanna Camusso, per la leader della CISL Anna Maria Furlan, Serravalle diventerà il simbolo di una battaglia contro lo snaturamento del lavoro. Per il vescovo di Tortona, un'intervista di stamattina, Vittorio Viola, il lavoro a Pasqua è disumanizzante. Questa quindi è la situazione. Ripeto, l'ultima notizia è che qui sabato, la vigilia di Pasqua, quindi non sabato prossimo, ma sabato 15 aprile, si svolgerà una manifestazione. Sarà sabato di scioperi. E allora, dibattito quanto mai aperto, l'abbiamo sentito. Grazie Andrea Ferro, a Serravalle lo ritroveremo naturalmente. Ritorniamo da dove abbiamo cominciato questo punto della giornata con Effetto Giorno, vale a dire ritorniamo in Puglia. Vi abbiamo raccontato con Domenico Palmiotti che è di nuovo fermo il cantiere per la costruzione del gasdotto, famoso espianto degli ulivi, nel cantiere di Melendugno. Il sindaco Marco Poti, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, restano 20 ulivi da espiantare, è corretto? Non conosco i dati precisi, ma dovrebbero essere un po' di più. Vabbè, comunque diciamo che la maggior parte sono stati già trasferiti. La maggior parte sono trasferiti, ma attenzione, sono i primi 211 sui 10.000 previsti da questo scellerato progetto. Allora non è solo Melendugno. No, sono 2.000 nel comune di Melendugno e poi ce ne sono 8.000. Non è solo Melendugno a protestare, ma dicevamo il TAR vi ha dato una tregua, almeno fino al dopo Pasqua, al 19, quando entrerà nel merito. La domanda è, se ancora una volta il TAR dovesse darvi torto, vi arrenderete? Noi non ci arrendiamo mai, perché interpretiamo quello che abbiamo fatto per 5 anni, che è esprimere la incompatibilità e la contrarietà di questa terra rispetto a questa opera. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e le manifestazioni di questi giorni sono la prova che quanto andavamo dicendo Sindaco, però oggi il TAR vi ha dato una, appunto, una tregua, chiamiamola anche tregua Pasquale, torneremo e poi si esprimerà nel merito. Ma di sentenze... le motivazioni erano quelle di chi dicevamo noi da tempo. No, le motivazioni sono, in realtà la sentenza di merito arriverà il 19, insomma, si attende. Scusate, di... Però leggiamo tutta la sentenza e dicono che le motivazioni sono quelle che chiedevamo da tempo, cioè per far prevalere il buon senso e evitare un inutile sacrificio ai 211 ulivi, alla prima parte degli ulivi, che è solo la punta dell'iceberg. Di quali ne restano 20, giusto? Sì, 30 insomma. 40 che sono ancora lì, alcuni schiantati addirittura e che stanno lì buttati a terra a soffrire. Ecco per cui dicevamo fermatevi, aspettiamo, vediamo se le autorizzazioni sono tutte chiare, e il TAR ci ha sentito finalmente. E in più dicevamo, siccome la fase subito successiva agli ulivi, che è quella di realizzare un mega tunnel sotto la campagna, sotto la spiaggia, sotto il mare di San Foca, non è assolutamente chiusa perché sta al Ministero dell'Ambiente. Aspettiamo, va benissimo, se il 19 vi danno torto... Il 19 non è dirimente perché c'è la questione che sta al Ministero dell'Ambiente, che andrà ben oltre il 19 e che in valutazione. Oggi io sto alla regione dove c'è un tavolo tecnico, regione e comuni, per capire quali sono le criticità che sono emerse sulla fase successiva, che è quella veramente pesante, che è il tunnel sotto il mare di San Foca, che è cambiata rispetto a 2 anni e mezzo fa, perché TAP stesso ha detto che lì davanti ci sono le praterie di habitat marini protetti, che inizialmente aveva detto non esserci. E quindi dopo gli ulivi anche le praterie. Dopo gli ulivi c'è tutto un mondo ancora. Per cui che va cosa bene. State facendo questa forzatura? Attenzione, la spiaggia di San Foca è una spiaggia bellissima. Io ritengo che grazie anche a questo intervento del TAR, i lavori si fermeranno, l'attività si fermeranno e almeno fino a ottobre-novembre non ne riparleremo. Lei dice così. Potrebbe essere una tregua più lunga. Grazie allora, sindaco di Melendugno, Marco Potì, l'avete capito, di sicuro questa vicenda andrà avanti e non si ferma qui. Ci fermiamo invece noi però per una pausa perché c'è il traffico.